col sovrintendente Fulvio Macciardi parliamo di questa nuova stagione del 2023 del Teatro Comunale, che sarà una stagione che passerà sicuramente alla storia e non solo per la musica. Il titolo della stagione è Opéra Nouveau, alla francese. Perché? Perché ci trasferiamo, andiamo in un luogo nuovo, tra l'altro vicino appunto a Esprit Nouveau, da cui ci è dato lo spunto, di fianco all'Europa Auditorium, dove stiamo realizzeremo nei prossimi mesi, all'interno di quello che nasce come padiglione per la fiera, un teatro, una sfida. Non siamo i primi a farla, non saremo neanche gli ultimi. Teatri storici bellissimi come il nostro, settecenteschi, ciclicamente devono essere oggetto di ristrutturazione. Qui l'ultimo lavori importanti furono fatti più di 40 anni fa, nel 1980, ed è proprio la scadenza con cui si devono rifare. In questo momento, peraltro, i lavori che interesseranno il lavoro, le attività del teatro sono importanti, perché si riqualifica tutta una zona laterale del teatro, costruendo nuovi spazi per noi, per i tecnici, per le orchestre e coro, sale prove, ingressi del teatro, nuova biglietteria, nuovo locale di intrattenimento per il pubblico e quindi soprattutto una nuova rivitalizzazione dell'area che ne ha tanto bisogno. Quindi un'attenzione, e questo ringrazio anche il Comune per un investimento importante, perché ci sono veramente molte risorse investite. E invece la sfida è andare in quest'altro luogo, dove costruiremo un grande teatro. L'ha fatto la Scala, gli Arcimboldi, lo facemmo quando anch'io lavoravo a Trieste tanti anni fa, inventandoci un altro teatro in un padiglione, pensate, delle Corriere, facciamo un teatro molto poi frequentato. Quindi affrontiamo e noi offriamo una proposta artistica assolutamente in linea. Avremmo fatto lo stesso tipo di produzione anche se fossimo rimasti qua. Una cosa molto bella è che comunque appunto la programmazione non verrà mai interrotta. Questo nuovo teatro probabilmente rimarrà come patrimonio della città per attività culturali, anche quando nel 2026 le attività del Teatro Comunale ritorneranno dove sono sempre state. Secondo me è sempre una grande gioia quando si apre una nuova sala da teatro ovunque, in una grande città come Bologna, in cui le politiche culturali hanno un significato molto importante, ancora di più. Aprirlo poi vicino a un luogo che è già oggetto di manifestazioni artistiche di altro genere, perché là fanno musica tra virgolette leggera, musical, intrattenimento, prosa, e quindi avere un polo che poi affianca queste attività, peraltro molto amate, molto frequentate, offre anche un altro tipo di repertorio, potrebbe essere interessante. Lì poi porteremo anche la stagione di balletto che annunceremo successivamente, però quest'anno ad esempio faremo due grandi titoli verdiani, uno di Wagner, un titolo rossiniano, un titolo Strauss, operetta, quindi un titolo molto leggero e divertente, Rossini, Donizetti, quindi un po' tutti i generi musicali, con un omaggio particolare. Mi fa piacere segnalare particolarmente questo appuntamento, La Norma, che facciamo perché ricorrono i 100 anni della nascita della forse la più grande interprete di Norma, Maria Callas, che forse non tutti hanno sentito cantare nei dischi, ovviamente intendo, ma che sicuramente ha segnato la storia della lirica come grandissima interprete, e quindi ci piace portare un titolo che lei portò a essere celebratissimo in tutto il mondo, portando quello che è uno dei tanti significati della lirica, esportare in tutto il mondo la lingua italiana, perché uno dei motivi perché ancora in Italia si studia ancora l'italiano è proprio perché l'opera lirica, più di metà dei suoi titoli sono ancora tradizionalmente cantati in lingua originale italiana, quindi questo è anche un motivo orgoglioso per essere ambasciatori delle nostre tradizioni artistiche. Ricordiamo anche tra i vari titoli Mozart con le nozze di Figaro, che sarà il primo episodio della trilogia da Pontiana. Esattamente, affrontiamo questo titolo a un giovane direttore, Dendivel, giovane direttore belga, assieme ad altri due giovani direttori, tutti debuttanti nel nostro teatro, soprattutto nell'orca e nell'opera lirica, Diego Ceretta, italiano, e invece Sasha Jankevic, fresco vincitore del concorso Toscanini. Assieme ad altri direttori molto più affermati, Daniel Oren, Asher Fish e Pier Giorgio Morandi, è quel giusto mix, ma soprattutto questo è un teatro che ha sempre dato la possibilità di far nascere nuove carriere, quindi questo ci piace molto, lasciare questo messaggio. La trilogia mozartiana vuol dire che sappiamo già che l'anno prossimo faremo Nozze di Figaro e tra 2 anni, nel 25, il Don Giovanni, quindi un percorso assieme anche alle 5 opere di Wagner che ripercorriamo, i primi 5 titoli che furono fatti qui in Italia al Teatro Comunale di Bologna, ripercorrere la storia di questo teatro anche nello sviluppo futuro, è un bel percorso di unire il passato e il futuro nelle celebrazioni delle nostre attività. La stagione sinfonica rimarrà all'Auditorium Manzoni. La stagione sinfonica resta tradizionalmente all'Auditorium Manzoni, che diventerà ancora di più un luogo anche per noi di realizzazione di produzioni culturali. Quindi il teatro comunale chiude la sua sede principale e noi ci siamo un po' diffusi per la città, abbiamo degli uffici in via Zamboni, abbiamo degli uffici in via Oberdan, abbiamo il laboratorio in via dell'Industria, abbiamo l'Auditorium Manzoni, abbiamo la nuova sede vicino appunto in fiera, vicino al Auditorium. È una sfida, una grande fatica, una grande battaglia, ma col supporto e con l'adesione convinta di tutti i dipendenti del teatro sono sicuro faremo bellissime cose e il pubblico sarà sempre felice, come penso spesso quando viene a frequentare i nostri spettacoli. Come ultima domanda le chiedo, nel cartellone c'è la dicitura musical senza ulteriori specificazioni. Confesso che speravamo di poter annunciare il Gobbo di Notre Dame, però legato anche a queste caratteristiche molto delicate, perché il palcoscenico della nuova struttura mancherà di alcune dimensioni, tra cui l'altezza, e quindi non è sicura la possibile adattamento della scenografia di questo spettacolo, per cui aspettiamo ad annunciarlo. Potremo chiudere i dettagli rimasti un po' in sospeso entro la fine di questo mese. Da novembre avremo il dettaglio preciso di cosa faremo e daremo un titolo esatto anche al musical.